fare tutta la... Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qui, buonasera a tutti, benvenuti, apriamo le porte della nostra Restoradio Convento quando scocca l'una e 14 minuti di questo sabato 28 luglio del 2018. Buonasera da Master Nick, dalla postazione interna alla Restoradio all'interno appunto del convento di Lonato, per raccontarsi e per raccontare cosa succede in questi minuti velocemente. Tutti gli sposi, tutti i festeggiati, tutti coloro che hanno voglia di fare due chiacchiere con noi vengono qui e insomma dai, provano anche un po' questa esperienza della radio e soprattutto ci raccontano il perché della loro festa. Attenzione perché inauguriamo la serata con un ospite speciale, insomma, anche protagonista sicuramente di questa serata, ma che tutti, o forse tutti, avrete conosciuto indirettamente perché l'avrete vista sulle vostre tavole. Capirete il perché tra poco. Dai, ti diamo il benvenuto, benvenuta. Ciao. Ciao. Ciao, benvenuta, come ti chiami? Katia, da dove vieni? Vengo da Bardi. Bardi, che è in provincia di? Parma. Diciamolo perché ci tengo anche a dirlo, visto che è spesso usanza parlare di Roma, Firenze, insomma delle grandi città. Bardi, che è uno dei borghi più belli, proprio votato da un... che lo fa quella lista? Beh, insomma, c'è la classifica. Com'è? Bell'Italia, grazie. C'è proprio una classifica ufficiale dei borghi più belli d'Italia, Bardi che è inserito tra quelli, quindi andatelo a vedere. Perché ad esempio potete trovare Moroello, il castello col fantasma. Abbiamo il Moroello fantasma. E Soreste. Moroello e Soreste. I nostri fantasmi. I fantasmi di Bardi. E che storia c'è velocemente? Se riesce... Una storia d'amore. Tra due fantasmi. All'epoca erano ok. Pensavo che si fossero innamorati da fantasmi. Sì, no. Mi hanno fatto credere che Soreste. Ah, scuso. Almeno era morta, sentiamo. Lui si è buttato giù dall'attore più rosso, poi dopo lei era viva e si è buttata giù anche lei. La storia tristissima, però ce l'hai riassunta, riassunta in pochissimi secondi. Perfetto. Però è interessante. Di che anni parliamo? Oh, la domanda non lo so. È troppo difficile. Magari lo sapevi, sera, magari lo sapevi, magari lo sapevi, bene così. Ringraziamo l'assessore alla cultura di Bardi che ci ha raccontato queste cose e mandiamo la candidatura al sindaco di Bardi per farla. Valentina Pontremoli, sindaco più giovane d'Italia. Ecco, mi raccomando. Ricordiamo che lei è la figlia del vescovo. La figlia del vescovo. Quante storie saprà la figlia del vescovo? Mamma, quante storie che saprà. E quindi dai, abbiamo anche fatto un piccolo excursus su Bardi, che è sempre bello ricordarlo, ma soprattutto ricordiamo la festa, il motivo della festa della nostra Katia, ce lo vuoi dire tu? Perché mi sposo e mi hanno fatto l'addio al nubilato. Oh, che bello l'addio al nubilato di Katia, quando succederà tutto questo? L'addio al nubilato stasera, ovviamente parliamo del matrimonio. 1 settembre 2018. Bellissimo, chi è il fortunato? Alessio. Fantasma o vivo lui? No, ah, vivo, non ancora fantasma. No, non è fantasma. Però sarebbe bello che venisse vestito da fantasma al matrimonio. Così fate insieme il bianco. E no, non si deve svelare il vestito della sposa, sia mai. Beh, insomma, c'è buona percentuale che possa essere bianco, ma magari vai contro le tradizioni. Attenzione, lo dicevo all'inizio, che avete possibilità di vedere anche la nostra Katia indirettamente su tutte le vostre tavole. Spiega il perché, dici cosa fai di bello nella tua vita. Uno pensa all'Emilia Romagna e gli viene in mente cosa? Il parmigiano reggiano. O il tortellino, e quindi il parmigiano reggiano. Dici un po' cosa fai perché è bellissimo. Lavoro nella ditta di mio padre. Lui secondo me vuol venire a lavorare con te. Almeno mi sembrava che volesse dirti questa cosa. Sì, forse. Lavoro nella ditta di mio padre che produce parmigiano reggiano. Oh, anche questa è un'altra. Biologico, sottolineiamolo, che tutto ciò che è bio va sottolineato e va portato alla luce, che è importante. E un'altra, dicevo, eccellenza dell'Italia, assolutamente. E dai, spiegaci un po' come avviene anche qui velocemente il processo di tutto, quanto ci vuole per far sì che il tutto arrivi a compimento. Il latte viene trasformato nel caseificio e aspettare 24 mesi 36 24 mesi. mesi. la magia della nostra valle. Eh sì, anche, anche le mani e l'amore, insomma, di chi lavora e sa quando è il momento giusto per fare tutto. Da quanto tempo lavori con lui? Un paio d'anni, quindi ha appena appena cominciato. Sì, beh, immagino che sia una tradizione in famiglia. E ti piace, ti interessa? Oh, bene, bene, bene. Quindi avremo una futura parmigiana reggiana, una futura produttrice di formaggio. Mi raccomando, tieni sempre alto il nome di questo bellissimo marchio italiano. E direi che è anche il momento di presentare le tue compagne di viaggio di questa serata. Mi vuoi dire chi hai qui con te? Ho la mia testimone, Monica, e la mia cugina. Sì. Mia cognata Valentina. La Valentina. E una mia amica Francesca. Che è... Ciao a tutti. La Francesca, anche assessora, abbiamo detto, alla cultura, alla cultura di Bardi. E, ok, quindi aspetta, cugina, testimone, cognata, cugina, giusto? E amica, molto bene. Gruppo ristretto, perché sono solo in 5, però intenso, perché alla fine è così che si fa. E allora, voi volete dire qualcosa, ragazze? Volete... Io ho già parlato anche troppo. Sì, beh, tu hai comunicato. E io vedo lei un po' estranea alla situazione... Tutto bene? Sì, sì, sì, sta benissimo. Sì, no, no, lei, allora, dovete sapere che me lo raccontava prima fuori onda, lei di lavoro collauda le spugne e praticamente adesso sta attaccata alla porta, che è chiaramente insonorizzata, quindi la spugna, per controllare la che si tiene, per controllare come si dice, il materiale, il colore, che sia tutto a posto, sei contenta? Benissimo, benissimo, infatti è un quarto d'ora che si struscia con la guancia contro la porta. Esatto. È un quarto d'ora che si struscia con la guancia contro la porta, fuori la guardano stranita, ma insomma noi abbiamo capito il motivo. Ecco, era per capire, per farvi un po' vivere quello che stiamo vivendo noi qui dentro. Tra l'altro vedo tutte motivi floreali, le tue amiche un po', no, colorate anche, molto molto colorate. C'è un motivo? Veniamo dalla montagna. Ah, è vero, è vero, è vero. Quindi avete mantenuto anche lei un po' perché, sul sotto. Perché il parmigiano reggiano di montagna è più buono? Perché ci sono i fiori nei campi. Ah, pensavo perché lo vestivate con i vostri vestiti. No, no. Ah, okay. Allora abbiamo portato i fiori anche qua. Madonna mia. Io, guarda, cioè, domani sono a Bardi. Me l'ha venduta così bene che domani vengo in gita a Bardi subito, perché non riesco a resistere. Ti aspettiamo, no? Ma noi domani siamo ancora qua. Vabbè, ma io vado, cioè, nel senso, non è che Bardi chiude perché voi siete qua, o no, o lo fate chiudere addirittura. No, tutto si troviamo da bere a Bardi, no? Ah, allora va bene, va bene. Cosa si beve a Bardi? Cosa si beve? Dei Gran Mojiti. No, perché quello che è la tradizione di Bardi, no? No, no, no, e poi il... sì, sì, sì, il cocktail tipico di Bardi, il mojito, nato lì sicuramente. No, di solito si beve del gran bagnolino, del gran limoncino, nocino, cognolo, ma erba Maria Luigia, come ti prendo su anche il PC, ormai, eccetera, eccetera. Beh, ma è preparatissima, è preparatissima. Beh, com'è che si chiama? Francesca, giusto? Ecco, quindi non vi stupite se poi a Bardi, sotto il cartello, benvenuti a Bardi, gemellato con Francesca, c'è scritto. Praticamente sa tutto. Cioè, veramente preparare un atlante geografico. Brava, brava, veramente brava. Allora, Katia, dai, siamo quasi in chiusura. Ti va di salutare qualcuno, dire qualcosa al microfono, se vuoi? Volevo ringraziare le mie amiche per aver organizzato questa bellissima serata. Vi voglio tanto bene. Mamma mia. Non ti commuovere. Ho la pelle d'oca altra 8 metri. E Alessio lo amo tanto. Oh, bene, bene, bene. È giusto dire anche questo. Va bene, grazie mille. Quanta gente vi saluta? Ma quanta gente conoscete? Cioè, stiamo parlando da 5 minuti e continua a arrivare gente che saluta, che vi vuole bene, che vi fa dei cuori. E quanta gente avete conosciuto? È incredibile, sono veramente delle calamite di persone. Abbiamo attaccato bottone con tutti praticamente. Brave, brave, è così che si fa, è così che si creano nuove conoscenze. Va bene ragazze, grazie mille, grazie a Katia, in bocca al lupo per la tua festa, grazie alle amiche e buona serata ancora dal convento di Lonato. Ciao! Ciao!